Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Nel mondo dei consumi ci sono degli indicatori che in mezzo ai numeri raccontano le nostre abitudini, i prodotti e i gesti che popolano la nostra quotidianità. Uno di questi è Best Global Brands, l'annuale classifica sulle 100 marche più potenti al mondo. Tra poco allora scopriremo quelle di quest'anno. È la generazione più raccontata e citata di sempre. Entro il 2020 costituirà la metà della forza lavoro mondiale e diventerà sempre più protagonista nel mondo dei consumi. È la generazione Y, i cosiddetti millennials, nati tra gli anni 80 e il 2000, la generazione al centro della rivoluzione digitale di questi anni. Nel mondo dei consumi, della comunicazione e del marketing, questa generazione ha cambiato le regole del gioco. Ecco perché si apre l'era del post-millennial marketing. Dominano il nostro palinsesto televisivo e da oggi anche il mondo della comunicazione di marca. Sono le serie TV il nuovo modello per l'ingaggio seriale dei consumatori. Lo dimostrano i casi che vi racconteremo nel focus sui trend di questa settimana. E se il computer fosse un bellissimo oggetto? Qualcosa che hai voglia di guardare, di avere in casa? E se, invece di essere solo nelle mani giuste, fosse alla portata di tutti? Sarebbe il più grande sconvolgimento tellurico dello status quo da sempre. Benvenuti a Google! Il 5% di voi troverà un lavoro a tempo pieno. Il restante 95% si attacca. Apple e Google, i brand simbolo della rivoluzione digitale, si confermano per il quinto anno consecutivo i brand più potenti al mondo, quelli che valgono di più, secondo l'annuale classifica firmata Interbrand, giunta quest'anno alla sua 18ª edizione. Con un valore di oltre 180 e 140 miliardi di dollari rispettivamente, i due colossi precedono Microsoft, che strappa il posto a Coca-Cola per la prima volta fuori dal podio. Nella classifica, la trovate completa sulla nostra pagina Facebook, entra prepotentemente Netflix, a conferma di un modello, quello dell'economia della sottoscrizione, che sta rapidamente conquistando il mondo dei consumi. Ne abbiamo parlato con Lidi Grimaldi di Interbrand Italia. Quest'anno il podio riconferma le prime posizioni, ma Microsoft supera Coca-Cola per la prima volta nella storia del nostro ranking, registrando una crescita del 10%. Questo sicuramente è dovuto a tutta l'attività che Microsoft ha fatto per riposizionarsi. Facebook ha registrato una crescita molto importante del 48%, è entrato, diciamo, nella top 10. Da quando è entrato ha scalato posizioni in modo molto veloce. Questo ancora una volta dimostra come appunto un brand sia acceleratore di crescita nella misura in cui riesce a guidare il cambiamento e non a subirlo. Fuori dalla top 10, una new entry interessante non è l'unica, ma partiamo da questa: Netflix. Beh, che dire, Netflix ha certamente creato una discontinuità enorme nell'industria dell'intrattenimento. È un soggetto di discussione all'interno delle conversazioni tra le persone, e tutto questo in relativamente molti pochi anni. Secondi, la pausa che avete sentito è il lasso di tempo in cui un millennial skippa la pubblicità su YouTube. E se parliamo di chi è nato dopo di loro, la generazione Z, i centennials, qualcuno li chiama screenager, scendiamo a 9,5 secondi. Una bella sfida per chi si occupa di marketing e comunicazione, alle prese con consumatori che stanno ridefinendo le regole, introducendo nuovi driver di scelta per contenuti, prodotti, canali di acquisto e modelli di consumo. Parole chiave: autenticità,

Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, gusto nordico, molto legno e colori matte, grandi formati e forme arrotondate. Sono le tendenze emerse dal CERSAI, il Salone Internazionale della Ceramica e dell'Arredobagno. Lì c'era per noi Daniele Zinni, che ha intervistato Alessandro Scopetti, vicepresidente di Confindustria Ceramica. Mi sembra che in questi ultimi periodi il colore sia rivenuto fuori alla grande. Colori però che si trovano in natura, non so, per esempio cioccolato, verde oliva, cemento, sabbia, un altro tipo di colori rispetto al passato. E sono tutti colori satinati, cioè matte, non sono colori brillanti, sono tutti opachi. Siamo passati dalle forme minimaliste di qualche anno fa, forme geometriche essenziali, minimali anche nelle dimensioni. Adesso si nota una ricerca a forme più morbide sicuramente ed anche più spaziose. Focus sui trend. Hanno rivoluzionato non solo il nostro modo di relazionarci con il piccolo e il grande schermo, ma anche le nostre aspettative, i nostri gusti, il nostro immaginario nei confronti della comunicazione tutta, anche e soprattutto di quella pubblicitaria. Parliamo delle serie TV e di come pubblicità e intrattenimento si incontrino ormai nei racconti di marca, alla ricerca di quello che i ricercatori di Future Concept Lab definiscono l'ingaggio seriale. Allora ci racconta tutto Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Cosa hai scelto come primo caso? Quello della serie che non ti aspetti, diciamo così, una serie che si chiama The Wolf ed è stata creata da HP, il produttore globale, diciamo così, di stampanti computer, che ha anche deciso proprio di aprire una sezione di produzione per dei contenuti originali, gli HP Studios, e ha prodotto una web series in cui c'è un hacker professionista, che è interpretato dal bravissimo Christian Slater, che sfrutta la vulnerabilità delle stampanti e dei PC per fare dei crimini contro tutti, aziende, istituzioni, privati. La serie è di 7 episodi, quindi mette in evidenza come le reti aziendali o istituzionali possono essere manipolate, ma contemporaneamente cosa le aziende possono fare poi per proteggersi. E un attore hollywoodiano, una qualità che non hanno nulla da invidiare appunto alle vere serie TV, come sempre i riferimenti, i link, le immagini e quant'altro sono sulla nostra pagina Facebook. Il prossimo caso, Isabella, è unico nel suo genere, un primo esperimento di un WhatsApp drama, quindi un racconto pubblicitario ideato per WhatsApp. Ce lo racconti? È un dramma, come hai detto tu, perché racconta appunto le vicende drammatiche, le relazioni, cosa succede a questa famiglia sudafricana che si trova alle prese con un funerale. È stata una compagnia appunto finanziaria assicurativa, Sanlam, sudafricana, che appunto per pubblicizzare i propri servizi mette in luce quanto queste spese, come possono essere onerose, no, per fare un funerale in Sudafrica, e quindi ha ideato questo magnifico racconto su WhatsApp, che è fatto anche questo in 7 episodi, uno per ogni giorno, è stato costruito proprio come se fosse una comunicazione in real time tra le persone della famiglia, e quindi ha sfruttato un po' tutti gli strumenti che noi utilizziamo tutti i giorni con WhatsApp, quindi i messaggi vocali, i videoclips, le foto, e tutti questi personaggi del dramma sono in realtà degli attori ben noti in Sudafrica, e anche la storia è stata scritta in collaborazione con questa scrittrice di serie televisivi, Bonnie Ndaba. È stata anche molto ben orchestrata, perché prima è stata pubblicizzata attraverso i social media, sulle affissioni, prima appunto di essere stata mandata su WhatsApp giorno per giorno, appunto come se fosse un real time. da WhatsApp a Snapchat, perché c'è anche chi ha guardato lì per raccontare, per trasmettere il proprio messaggio pubblicitario in modo originale, ovviamente. Qui entra in gioco sicuramente l'engagement, perché Snapchat è un nuovo modo di fare comunicazione, soprattutto sui più giovani, sulle giovani generazioni, ma non solo. Questo social network è quello che ti permette di fare selfie, foto, video, ecco, e poi modificarli con maschere digitali e filtri molto divertenti. Ha messo a disposizione tutta una serie di strumenti per le aziende, gli sponsored creative tools, che adesso si sono ampliati ulteriormente e stanno diventando importanti. Per esempio, ci sono le sponsored world lenses, che permettono, da questa primavera, purtroppo però non in Italia, alle aziende di inserire degli elementi 3D nel contesto della foto, quindi non più solo il selfie, il proprio viso, ma anche proprio una foto del paesaggio, o di cambiarmene le luci, le atmosfere, di aggiungere elementi di gioco interattivo. E quindi il primo a utilizzare questo tipo di pubblicità è stata la Warner Bros. Per il suo film Everything Everything, che adesso è tra l'altro proprio in questo momento nelle sale in Italia, si chiama Noi Siamo Tutto, in cui inquadrando il paesaggio attraverso queste lenti creative si vedono volteggiare piccoli colibrì, si vedono i disegni floreali e l'astronauta, che poi fanno parte anche un po' dell'immaginario creato dal film stesso. Il prossimo caso ha a che fare direttamente con il mondo delle serie TV, parliamo del Trono di Spade e di come sia diventato un'occasione di promozione turistica. Sì, perché l'ente del turismo dell'Irlanda del Nord, appunto, ha aperto, ha messo in mostra nell'Ulster Museum di Belfast un lunghissimo arazzo, proprio un manufatto colossale di 77 metri, fatto di lino pregiato secondo appunto le modalità di ricamo tradizionali e quindi anche l'artigianato locale, illustrando però che cosa? I luoghi, i personaggi, le vicende del Trono di Spade, quindi la serie di grande successo che è ormai la settima stagione. Tutte queste scene sono state ricamate a mano da dei veri e propri professionisti, e però proprio sono attinenti alle vicende del Trono di Spade, anzi sono così cruente che la mostra per esempio è vietata ai minorenni. Tutta questa iniziativa fa parte tra l'altro di un'intera experience che l'ente ha sviluppato intorno alla serie, perché è proprio nell'Irlanda del Nord che molte location del film sono state utilizzate. Un modo di fare pubblicità che esce dagli schermi ed entra appunto nella vita reale delle persone. Ecco, la pubblicità diventa seriale anche negli spot. Contemporaneamente però le serie TV cercano di uscire dagli schermi, come hai appena detto anche tu, Isabella, per confondere realtà e finzione. Quest'ultimo caso è rivelatore in questo senso. È quello della Cali Collection, che è proprio recentissimo, perché durante appunto la Fashion Week milanese, che si è conclusa lunedì, c'è stato proprio un evento che ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, ma non solo, e appunto si mostrava attraverso cartelloni e inviti a assistere alla presentazione della Cali Collection il 24 settembre in Corso Venezia. E così è stato, c'è stata proprio una festa e una sfilata di abiti di questa collezione tutta made in Colombia, che però in realtà non è una vera collezione di abiti, diciamo, non è poi acquistabile, almeno per ora, diciamo così, ma è la campagna di lancio per pubblicizzare la terza stagione di Narcos, la serie prodotta da Netflix, ed era appunto una collezione molto elegante che riproponeva lo stile dei businessmen, chiamiamoli così, colombiani del traffico della droga, che sono i protagonisti della serie. E Cali è il nome del cartello della droga antagonista al cartello di Medellin, ed è quello che dà il nome alla nuova stagione. E gli abiti che hanno sfilato erano stile anni 80, ma nascondevano tasche segrete per il trasporto della droga, insomma, una cosa molto originale. Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima. Alla prossima, grazie a te. Il consumautore. È il momento della nostra riflessione finale in compagnia del sociologo Francesco Moraci. Ben trovato, Francesco. Grazie Maria Luisa, buonasera. Partiamo subito da questa clip che abbiamo preparato. Qualcuno ha perso una sciarpa. C'è del rosso, vero? Dare un colore alle cose mi aiuta a vederle. Per voi è un po' più difficile. Siete per forza di cose più legati all'apparenza. Lo sai che tu... Ti ricordi quel discorso sui colori che abbiamo fatto? Mi ha fatto venire in mente l'idea per uno spot di una macchina. Ti devo una cena. Siamo liberi da qui. Di lasciarci andare e poi riprenderci. Perché l'amore... La cieca è il pubblicitario. Ma quanto pensi che durerà? Era Il colore nascosto delle cose, il nuovo film di Silvio Soldini. Questo spunto per raccontarci che cosa, Francesco? Per raccontarci come stia cambiando anche la sensibilità dei pubblicitari. La storia, la relazione tra questi due personaggi è molto interessante, perché è lei, non vedente, che insegna a lui, pubblicitario, la nuova dimensione, direi anche per i consumautori. Quindi non tanto la visibilità, ma quella magia empatica che ti fa capire le cose anche se non le vedi. Ecco, quindi lui capisce di essere fuori tempo, cioè una delle attività che per anni è stata considerata la frontiera anche dell'innovazione e che oggi invece deve riflettere su di sé, così come deve fare l'azienda per capire anche la comunicazione del futuro. Beh, il neuromarketing ce lo insegna: spesso un suono dimenticato, un profumo, sono i richiami emozionali più forti di mille immagini, pur riconoscendo ovviamente la forza dei contenuti visivi nella comunicazione di oggi. Eh sì, e poi dobbiamo anche noi affinare, recuperare questa capacità di lettura del mondo che va al di là dell'immagine. Non c'è nessuna demonizzazione dell'immagine, ma già solo essere in radio, no? Credo che sia la dimostrazione che questo è un potentissimo canale di relazione con i nostri clienti e con anche le nostre comunità. Quindi l'importanza degli altri sensi per i consumatori. Esatto, e anche quell'intelligenza laterale di cui spesso si parla anche nel marketing, che però deve avere una sostanza profonda, perché lei, la protagonista del film, ha una capacità anche di comprensione e di gestione della propria vita, nonostante le sue difficoltà, tanto che le insegna a una ragazza molto giovane, anche lei non vedente. Quindi c'è anche proprio una storia educativa importante. Grazie a Francesco Morace, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.